come odugno e a mezzanotte sai la carezza in un pugno rimane un flashback per me, un biglietto in prima classe, primo viaggio su Marte, così ti fai contento e non mi vedi più, perché tu come patti mica tanto bravo poi mi butti giù. Ehi, non sono mica la tua bambola e basta coi discorsi tuoi che tanto li fai bandera, sul ponte svento la bandiera bianca, nessuno mi può giudicare se non ha sostanza, io il cielo in una stanza, tu più nessuna importanza, domani non lo sai ma io posso stare senza di te, e non mi importa se oggi più non c'è, solo intorno a me, io pensa al fuoco che bruciava, adesso cenere, parole al vento, la vita è troppo amara, adesso finge almeno di essere contento.